sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. So già che sarò fortemente frainteso questa mattina da molte persone che mi ascolteranno, soprattutto una. Però sto parlando in senso astratto. Non è detto che trattare un argomento spinoso e difficile come quello di stamattina significa condividerne gli assunti. Sarò neutrale, sarò neutro. Qual è il tema oggi? Il tradimento. Oggi tenteremo di fare un elogio del tradimento. Elogiare il tradimento significa rinnegare la propria umanità, come tradire, la cosa più infame che si possa fare nella vita. Pensiamo al tradimento innanzitutto nel senso più lato, il tradimento della fiducia, il tradimento degli amici, il tradimento dei patti di sangue, il tradimento della propria stirpe, il tradimento del patto che viene fatto con i propri elettori. Ci sono delle gamme vastissime di tradimento, tutti belli, eroici, astratti e tutti degni di poesia, di letteratura, ma in realtà non sono i tradimenti che toccano a noi personalmente. L'unico vero, concreto, doloroso, struggente tradimento è quello amoroso, diciamo la verità. Tradire e essere traditi in una sorta di patto amoroso è qualcosa che fa molto malino. Fa malino a tutti è successo di essere traditi, a tutti è successo di tradire. Io sfido questa mattina a chiamare qualcuno all'800240024 che nella vita sua, ma in coscienza profonda, non ha mai compiuto un piccolo tradimento. Piccolo tradimento non significa, visto che parliamo dell'accezione amorosa, un profondo, appagante, viscerale e divaricante rapporto carnale. Significa anche semplicemente nascondere qualcosa, tenersi dei palpiti che non si condividono con la persona che abbiamo ufficialmente accanto, istituzionalmente accanto. Significa cominciare a coltivare delle piccole aree riservate che probabilmente ci potrebbero portare verso sentieri piacevoli, tremebondi, rischiosi, ma appaganti. Esiste una vasta letteratura sul tradimento, ma esiste molta poca concreta, reale, giustificata e corroborata da un buon senso, riflessione sull'aspetto positivo del tradire. Se il tradimento fosse accettato non si chiamerebbe più tradimento. Qualcuno pensa che per noi il tradire, perlomeno la nostra accezione, soprattutto il tradire in senso amoroso, è fortemente legato alla figura del traditore per eccellenza. Chi tradisce è un Giuda. Sei un Giuda, mi promettevi amore eterno, mi promettevi fedeltà, mi promettevi che ero l'unico uomo, alias unica donna nella tua vita, invece ti sei concesso l'altra. Ma esistono degli spazi propri, personali, individuali che possono essere coltivati e nessuno dovrebbe aversene a male, nessuno dovrebbe sentirsi defraudato. Esiste la possibilità questa mattina di tracciare, andando controcorrente, rischiando la vita e rischiando anche la propria serenità familiare, fare un elogio del tradimento? 800240024. Come possiamo pretendere da un unico oggetto d'amore che sia la soddisfazione di ogni nostro desiderio? Questo non è amore e nemmeno egoismo, è puro sadismo. E se anche per assurdo fosse eccezionale in tutto, se il nostro partner fosse il più tenero e forte e instancabile degli amanti, il più ricco e generoso e intraprendente uomo d'affari del pianeta, il più colto, interessante e originale cervello della storia, il più scolpito e lucido e fulgido fisico che una palestra abbia mai visto, il più divertente ed educato e fine intrattenitore sociale e così via, esso non potrebbe comunque mai soddisfare la nostra sacrosanta necessità di varietà. Io non conosco Gemma Gaetani, non l'ho mai vista, non ho nemmeno mai sentito la sua voce. Ho in mano il suo libro Elogio del tradimento, conquista, tradisci, nega, edizione Vallecchi. E io dico che stamattina, iniziando subito a compiere un primo e profondo, viscerale e punibile senz'altro tradimento, che mi sono innamorato di Gemma Gaetani. Ma per cosa mi sono innamorato di lei? Per una frase che ha scritto nel suo libro. E ve la leggo, perché è la chiave di tutto quello che questa mattina vorrei dire. Parliamo di Giulietta e Romeo. Dice: «Se molto più maturatamente Giulietta avesse smesso di frignare, si fosse sistemata con Paride, avesse tenuto Romeo come suo amante, ben 5 persone sarebbero rimaste in vita: Mercuzio, Tebaldo, Paride, Giulietta e Romeo. Invece no, l'amore assoluto, o Romeo o nessun altro. E con queste premesse è chiaro che la cosa si trasformò ben presto in una tragedia di cui ancora oggi noi italiani paghiamo il dazio emotivo, risultando essere quelli della pizza al mandolino, la mafia, Giulietta e Romeo. Beh, è fondamentale e secondo me straordinario che una donna abbia scritto queste cose. Gemma Gaetani, dopo che mi sono dichiarato, posso salutarla e darle la voce. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'innamoramento. Sì, ma è fugace, fallace e traditore, naturalmente. Certo, è come deve essere, è ovvio che deve essere così. Senti, ti prendi questa grossa responsabilità di essere una donna che ha sdoganato la liceità, anzi il diritto, anzi il sano dovere di dover tradire? Sì, perché voi siete sempre le tradite, quelle sempre che piangono, si strappano le vesti, noi gli infami, quelli che non capiscono, gli insensibili. Sì, sì, ma io ho voluto scrivere questo libro anche per questo motivo, perché che non tradire sia giusto è un luogo comune, che la donna debba difendere la fedeltà è un luogo comune. Allora io mi volevo, diciamo così, scagliare, anche se in maniera così piuttosto simpatica, insomma, non violenta. Adesso non mettere le mani avanti, abbi il coraggio delle tue azioni. Tu ti sei messa con le spalle al muro, pronta ad essere fucilata, mirando naturalmente al cuore, salvando in volto, da tutte le tue colleghe di genere che diranno: come dici una cosa del genere? Ammetti che sia lecito tradire anche per noi donne. Non lo facciamo mai, chi lo fa sono le zoccole, sono le donne che vivono soltanto per tentare di strapparci i nostri uomini. Ma guarda, è già successo così, mi hanno scritto in privato, per esempio su Facebook oppure tramite il mio sito, per esempio una donna mi ha detto: sicuramente tu non sei madre, ecco perché non sai cos'è l'amore vero. Sì, perché le madri non tradiscono, scusa. Ecco, no, a parte che spesso tradiscono il marito col figlio perché diventano delle governanti tedesche. Che è ancora peggio. E questi poveri mariti poi devono essere consolati dalle amanti. Comunque, poi il figlio è nessun disgraziato, pieno di problemi. Certo, infatti sarebbe, infatti non so, io sto notando, cioè devo dire che ci sono reazioni molto scomposte e perfino aggressive. A me questo fa ridere, in realtà mi fa piacere, perché allora so di aver toccato un tasto dolente. E non presso tutti, è chiaro, insomma, c'è anche chi ha ragionato a lungo e è convinto che poi tradire sia qualcosa che non vuole fare, no? Però diciamo una cosa, io ti dico come la penso io. In linea di massima, far soffrire un'altra persona non è bello. Se uno potesse evitare che qualcuno soffra per la nostra soddisfazione, sarebbe la cosa migliore. No, dico questo. Quindi tu spieghi nel tuo manuale che esiste una forma, qualcuno potrebbe dire subdola, ma diciamo protetta, di poter esercitare il proprio diritto di tradimento senza che nessuno debba aversene a male, perché il traditore confesso è secondo me la peggior razza umana che possa presentarsi. Sì, lui è un debole, perché il traditore infatti io non l'altro giorno hanno parlato del libro Radio 2 da Chiara Gambera, l'ha chiamato un uomo. Vabbè, immagino non sarà stata la stessa cosa. Dici questo, no, lo considero un tradimento e ti seguo subito le gambe. No, è un programmino ipocrita in una rete ipocrita, in un'azienda ipocrita. Figura cosa avrei detto, che in fondo tradire è una cosa che fanno i cattivi. No, mi ha colpito, no, lui raccontava la sua esperienza e diceva: io una volta ho tradito mia moglie con una prostituta. Insomma, già a me non piace la parola prostituta, comunque. E poi dice: dopo ho confessato. Vabbè, no? un povero maiale seminarista. No, ascolta, con stupore lui diceva, aveva la voce ancora un po' scioccata, secondo me forse era successo 2-3 mesi fa, non lo so, diceva. Forse nemmeno era vero. E lei mi ha lasciato. E io pensavo, ascoltavo e dicevo: ma grazie, ma scusa. Ha fatto bene. Cioè, voglio dire, ti ha lasciato, ma non perché l'hai tradita, perché sei debole, cioè ha capito che eri un uomo troppo debole per lei. Un chiaro pallemosce, è logico che in realtà lui ha confessato il suo limite, primo organizzando questa sorta di tristissima sceneggiata, che tradimento è andare con una prostituta, infatti, è un atto meccanico e prezzolato il tradimento, infatti. Può avere un senso se è una strada perigliosa, difficile, rischiosa e suggestiva. Andare con una prostituta non trovo che sia nemmeno un tradimento. Come andare, non lo so, da una fisioterapista, se uno vuole, se proprio c'è questa necessità. Sentiamo Michele intanto. Michele, finalmente arrivata l'anima pura che aspettavamo tanto, non hai mai tradito nessuno in vita sua? No, bravo, non Michele. Ho tradito nessuno, Buongiorno, Nicoletti, sono molto contento di parlare con te. Quanti anni hai, Michele? 42. 42. No, no, io non voglio fare... Sto con mia moglie da 25 anni circa, fra fidanzamento e matrimonio. Non l'ho mai tradita e sono certo al 100%, a differenza di quello che puoi pensare tu, che normalmente ti sento, anche lei non l'abbia mai fatto. Allora Michele, guarda, proprio per sfatare il luogo comune, che tu non l'abbia mai tradita ti fa onore, sono contento che ci siano delle posizioni così radicali. Sarei ben meschino se volessi portare la battaglia del libro tradimento. Sul fatto però, io te lo dico poi per l'esperienza di vita. Sì, 100%, 100%. Non lo metto, mai scalfirò le certezze così adamantini una persona. Però tieni conto che in realtà, guarda che la realtà è sempre molto diversa dalle apparenze. Forse, bene così. 100% forse non ci sarà mai, ma ho una certezza perché il rapporto è vivo ancora. Diciamo che la forza del vostro rapporto, che è basata su una adamantina fiducia l'uno nell'altro, sincerità, ecco, senza nessuna pressione. E tu sai, secondo me, tu sai in te che se tu la tradissi, se seguissi una tua tentazione, romperesti questo patto e avresti subito una ritorsione, entresti in un'area pericolosa in cui avresti la ritorsione. Forse sì. Va bene, Gemma Gaetani, di fronte, ecco, è arrivato subito l'esempio che noi aspettavamo della persona che è straconvinta, ma ho sacro rispetto, non sto scherzando, che esista questa possibilità del rapporto duraturo basato sulla fiducia. Cosa hai da dire? Alla luce naturalmente del tuo manuale, comincia a dare consigli pratici e pratiche letture di questo fatto. Guarda, infatti lui, l'ascoltatore, ha detto una cosa bella, ha detto: il nostro rapporto è ancora vivo. Allora, quando un rapporto è vivo, è chiaro che viene spontaneo essere fedeli, no? Anche se ci sono dei coraggiosi che sanno amare più di uno o di una contemporaneamente, cioè questo è possibile a livello fisico così sentimentale. Comunque la maggior parte delle persone si accontenta ad amare uno oppure a piacere nell'amare uno, va benissimo. Io dico però a quelle persone invece che soffrono di quest'unica compagnia nella loro vita che è diventato il partner o la partner e che vivono ancora un rapporto che è morto, no? E lo vivono per tanti motivi, perché non devo raccontare io, per esempio, che c'è per una tenuta etica, povertà, per... ma certo. La povertà dei neoseparati, c'è questo fenomeno, no? Oggi se un uomo con uno stipendio medio, con dei figli, con un mutuo intestato a sé, decide di separarsi o divorziare perché non ama più la moglie, praticamente è rovinato, diventa un barbone perché non gli rimane più nulla per mantenere se stesso. La stessa cosa per una donna che si affranca al rapporto coniugale, che permette comunque una tenuta dignitosa del proprio menage, se esattamente si mette di fronte a una situazione molto, molto, molto pericolosa. Quindi diciamo subito un primo dato: uno dei blocchi al tradimento, ma il tradimento, che è una parola brutta anche se l'abbiamo un po' sdoganata, al felice appagamento dei propri anelli, delle proprie curiosità di uscita dalla banalità, lo fa molte volte perché c'è un fatto crudamente logistico che blocca questa spinta alla felicità, vero? Sì, assolutamente sì. Allora io parto dall'idea che questa coppia sia una coppia infelice, una coppia bunker, una coppia mortifera innanzitutto per chi la compone e per l'amore, che invece è una cosa meravigliosa e che comincia, come hai detto tu prima scherzando un po' nei miei confronti, con un innamoramento, cioè con un gesto di libertà e di apertura nei confronti del mondo. Allora io dico a questi mariti, a cui tra l'altro non lo devo dire io perché tanti lo fanno già, l'hanno capito ben prima di me, insomma, che andassi a dire, e anche a queste mogli dico: no, tradite, cioè abbiate il coraggio di andare a vedere che c'è fuori dalla coppia. Però tu dici, guarda, scusami Gemma, sì, il tuo sottotitolo è fondamentale: conquista, tradisci, nega. Sì, è sulla terza parola che io mi soffermo, perché l'aspetto distruttivo che corrisponde all'appagamento del proprio lecito diritto a vivere pienamente la vita significa di fare qualche conto anche con la realtà, perché partire per avventure distruttive può essere anche molto semplice, ma a volte è autolesionismo totale, è anche un'inutile frattura che si crea in un rapporto, comunque può stare in piedi anche con questi, diciamo, accomodamenti laterali. Sentiamo Lisa cosa ne pensa. Lisa. Buongiorno, io ho subito un tradimento devastante da parte di mio marito dopo tantissimi anni di matrimonio. Questo tradimento, tra virgolette, a me ha fatto molto bene, perché penso che un amore che si culla nella sicurezza, nella placidità, sia veramente va incontro a una stasi, a un addormentamento. Quindi le ha permesso una faticosa ma gratificante riconquista del marito. Sì, veramente a me ha dato uno spray, mi ha dato una forza, una carica, una consapevolezza di me stessa, del mio rapporto, dell'importanza di avere una famiglia. Sì, perché ci si rende conto che la persona che davamo per scontato che stesse lì accanto a noi a ciabattare per tutta la vita, magari è merce ambita nel mercato delle sensazioni e delle emozioni, può essere emozione per qualcun altro, quindi ci sentiamo defraudati di una possibile emozione, quindi corriamo subito a riprenderci. Potete trovare la vostra preda in aereo, in treno, sui mezzi pubblici. Qualsiasi sciocchezza va bene per cominciare a parlare. Potete trovarla in auto, meccanico e carrozziere, benzinaio. Potete trovare una preda anche aspettando un taxi e perfino in taxi. Potete trovare una preda in fila in banca, all'ufficio postale, al supermercato o chiamando un call center, l'idraulico, l'elettricista, il caldaista, il pittore, il muratore, l'arredatore, un babysitter, un dog sitter, un domestico, un organizzatore di feste di compleanno e anche per una pizza o qualsiasi altro cibo consegnato a domicilio e soprattutto in ufficio. Sto con Gemma Gaetani, autrice di Elogio del tradimento, Conquista, tradisci, nega, edizione Vallecchi. Qualcuno mi dice che sono stato molto crudo verso una trasmissione, ma stavo scherzando, logicamente, fa parte della amorosa dialettica fra reti concorrenti. È logico, non posso voler bene a chi fa un programma in contemporanea a me, è un mio competitor e se posso sparare a palle incatenate, senza offesa, senza lesione dei rapporti amichevoli per chi la conduce, lo faccio volentieri. Vorrei la distruzione di tutti i miei competitori. È giusto anche in amore questo, Gemma Gaetani? Sì, assolutamente, guarda, sei un vero sleale tu. Certo. Che anch'io mi sono innamorata di te. Sleale in che senso? Nel senso che hai detto una cosa bellissima, posso essere buono con i miei competitori? No. Ma è questo, guarda, anche la telefonata di prima, Lisa mi pare si chiamasse la donna che ha chiamato. Sì. Era veramente indicativa, ma infatti del tradimento, cioè io ne ho parlato, adesso mi piace molto ascoltare gli altri, le persone normali, insomma, che ne parlano, come sono anziana. Beh, c'è un aspetto terapeutico, diciamo, la crisi in un rapporto sentimentale accende la lampadina del desiderio che non immaginava per un'altra persona, quando l'altra persona diventa oggetto di condivisione felice di estranei, diciamo, perché gli altri devono averlo, io no, e ci se ne accorge subito. Certo, ed è stato bello perché Lisa, vedi, è dovuta ridiventare non più la partner fissa di suo marito, ma la donna che riconquistava suo marito. Certo, è diventata l'amante dell'amante, pensa che triplo salto mortale, si sarà andata a radere ogni pelo superfluo, si è andata a levigare, si è andata a tonificare, si è andata a lezioni di danza del ventre, fa tutto quello che... Io credo che sia una questione estetica, io lo dico nel libro. No, guarda, perché... aspetta, il primo sintomo del tradimento è il rifiorire estetico. Quando un nostro partner rifiorisce dal punto di vista estetico e non abbia nessun merito in questo, vuol dire che qualcun altro se lo sta pappando felicemente, questo possiamo dirlo. Beh, ci fermiamo un attimo a dare la linea velocemente alle informazioni della borsa, anche se l'argomento è suggestivo. 800 24 00 24, dai, diciamo la verità su quanto faccia bene essere traditi a volte, se voi lo pensate. Melog 2.0. Consigli pratici per tradire in tranquillità. Difendete la vostra privacy. Ad esempio, mettete un PIN al cellulare. Dovrete conoscerlo soltanto voi. Apritevi un indirizzo email che non contenga il vostro nome e cognome e usatelo in via esclusiva per gli affari di tradimento. L'amico. Inventate un nuovo amico, amica se siete donne. Può essere un nuovo arrivo in ufficio, in palestra, al corso di scacchi, in parrocchia. Parlatene con entusiasmo. Inventatelo in gamba, ma momentaneamente in difficoltà. Ha appena divorziato, perduto il lavoro, è appena guarito dal cancro, diventato impotente. 800 24 0024. Mai come questa mattina ci conquistammo posti tra le fiamme con Satanasso, che ci dà le forconate sulle nostre improbe carni, che danno così gratuitamente consigli di tradimento. Non si fa a consigliare di tradire, eppure lo facciamo, eppure spieghiamo come questa attività, che in fondo è anche gratificante, è anche salubre, avete sentito, anche salvifica per certe situazioni, per certi risvegli che in realtà nelle coppie molte volte sono difficili, se non accadono degli elementi fantastici, delle mutazioni improvvise. Mi scrive Andrea su Facebook: se la moglie inizia a indossare perizoma modello filo interdentale, dimagrisce, aggiorna il look, probabilmente il marito avverte in contemporanea una forte emicrania dovuta allo spuntare sul capo di nuove fastidiose protuberanze a forma appuntita e ramificata. Il luogo. Se non avete una seconda casa, procuratevi un albergo di fiducia e andate sempre lì a consumare i tradimenti. La confidenza che a un certo punto avrete con la concierge farà capire a ogni farfalla che ci porterete che siete degli habitué, che non c'è trippa per gatti se la falena di turno si fosse messa in testa di legarsi a voi in via esclusiva, e voi non volete questo. Il tempo. Inventatevi turni notturni in ufficio. Lo so, può sembrare non facile. Se siete disoccupati, inventatevi che vi siete iscritti a un corso di fotografia urbana, di cinematografia, di assistenza in ambulanza. Inventate corsi del genere anche se siete occupati. Gemma Gaetani, donna che sulla sua carne sofferta ha provato le dure esperienze del tradimento consapevole, ha scritto Elogio al tradimento, conquista, tradisci, nega, edizioni Vallecchi. Gemma Gaetani, per mettere a punto un così dettagliato manuale del perfetto indolore tradimento dovrei aver faticato molto. No, io ho faticato solo molto. Teoria. No, ti voglio spiegare dove ho faticato. Ho faticato molto quando sono stata tradita la prima, la seconda volta, perché ho sofferto molto, perché anch'io avevo in testa questa concezione sacrale dell'amore. Poi ho detto, ma non sarà che questi partner che mi hanno tradito avevano ragione, ma fammi andare a vedere dove zompettavano loro. E ho incominciato anch'io, diciamo così, a essere un po' più leggera nei miei rapporti, a dire bugie, a promettere cose che non mantenevo. Cioè, e devo dire che ho iniziato a divertirmi tantissimo. Devo dire, nel tuo libro c'è degli esercizi di training veramente al limite proprio dell'esercizio zen. Abituarsi a dire bugie, cominciare a guardarsi allo specchio e dire io mi chiamo Giovanni, così uno si abitua a dire bugie, via via iniziare con menzogne del tutto gratuite per abituarsi a dirle in maniera tranquilla. Sì, io credo che bisogna imparare anche a mentire nella vita. Guarda, io credo sul serio che fare bene, comportarsi bene è molto facile. Fare male, tra virgolette, no? Comportarsi male è molto più difficile. È qualcosa che ci fa diventare più forti. Infatti, questo lo trovo giustissimo, e anche la filosofia di vita di Sufyan. Buongiorno, 21 anni. Sì, buongiorno. Io volevo solo dire che per me, se uno non tradisce, non ha mai tradito, prima o poi lo farà. Cioè, e lo farà in maniera scomposta, dilettantistica e devastante. Esatto, perché è inevitabile. Cioè, per me è meglio se tu tradisci a 20, 30, 40, 45 anni, piuttosto che tradire a 60, 65 anni. Come il morbillo, anni. Meglio averlo da piccoli che da grandi, anche gli orecchioni. Infatti, perché... Cioè io una giovane, cioè sono ancora giovane. Vabbè, a 21 anni, grazie che tradisci, vorrei vedere, ti leghi indissolubilmente a una persona, saresti masochista. Non è tradimento il tuo, è cosa, chi tradisci? La fidanzata, non so, chi tradisci? No, io momentaneamente non ho ancora tradito, però... Allora stai millantando, non sei un traditore. No, cioè io non ho tradito, cioè gli altri non sanno che io abbia tradito. Però vabbè, non vogliamo dirlo, ho capito. Però abbracci la filosofia, il Gaetani pensiero, trovi che sia una filosofia da abbracciare? No, per me è esatta quella filosofia, perché come lei ha detto prima, essere dire bugie e essere buoni è molto facile, e dire bugie che è difficile. È una sottile arte, infatti è ancora più difficile individuare quelle altrui, quelle che ci feriscono, ma una volta che uno ha la formula della comprensione della bugia altrui, il mondo si vede con occhi molto diversi. Valeria. Oh, buongiorno a tutti. Dunque, io sono sempre stata la brava ragazza ma sempre troppo sopra le righe, ma con dei sentimenti fermi, la fedeltà, l'amore, il principe azzurro. E perché lo dici con ironia adesso? No, no, e poi, tac, che è arrivato il tradimento, famiglia andata a pallino, eccetera, eccetera. Ho iniziato anch'io. Ma una volta separata... Ho iniziato a permettermi di guardarmi in giro un po' di più, di saltellare da una storiella all'altra, piuttosto ha ceduto alla lussuria, su, diciamolo in termini. Intanto che iniziavo una storiella mi davo a quell'altra, anche qui nell'ambiente. Sì, è ma dov'è la... Scusi... No, allora, questa è una, se no, capito, lei ha fatto una scelta. Riavvolgo un attimo il nastro, all'inizio della trasmissione lei disse. No, no, una cosa, signora, mi fa capire dov'è il tradimento in questa sua scelta. No, un attimo, lei disse all'inizio della trasmissione, Nicolini, che le donne quando Nicolini tradiscono... era una volta l'assessore alla gioia del comune di Roma, io do gioia a pochissime persone. È che sono sul lungo lago a Lugano con le doppie frecce e ho il panico. Allora, disse pochi minuti fa che le donne che tradiscono sono delle... Zoccole, io l'ho detto, ma guarda, lei si sbaglia. No, l'ha detto, ho detto nelle accezioni femminili che giudicano le donne che compiono questo atto scellerato, le donne dicono, ah, tu hai tradito con quella zocca, io amo le zoccole. Va bene, allora, resta il fatto che voi uomini mettete la tacca sul muro 151, 52, 53, noi non ce lo possiamo permettere di dire quello là non vale niente. Piccoletto, io ho tante amiche che lo dicono tranquillamente. Le donne non se lo possono permettere. L'80% delle donne che conosco se lo permettono, senza problemi. Io no, non me lo permetto perché a quel punto vieni additata. Come l'ha chiamato lei, zoccola. Sì, questo avviene logicamente in tutte le società, anche le apparentemente più liberali, però uno deve correre un rischio. Uno, se vuole essere felicemente spudorato e padrone delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni, deve correre anche il rischio di sfidare il perbenismo comune. C'era sempre qualcuno che punta il dito contro di lei, signora, anche solo per compassione, poverina, guarda, quella lì è stata tradita, è altrettanto doloroso, quindi ma cosa le importa? Bene, faccia tranquillamente l'elenco delle defaillance dei suoi amanti. Da Pianazza in poi in centro Lugano inizierò a raccontarle tutte, così va bene. Vediamo. Ci farebbe piacere ascoltare, però dobbiamo andare avanti e sentire Armando. Armando. Buongiorno, sono Armando e niente, io a dispetto di tanti, non so, ma penso che traditori si nasca. Perché almeno da parte mia è sempre stato così, fin da ragazzetto, e avevo la mia morosina, però non riuscivo a essere fedele. E poi? E poi sono cresciuto e pensavo mi passasse, invece è quasi diventato peggio. E non so se il motivo quale possa essere di questi miei tradimenti. Anche se io sono assieme con una donna che adoro, però... Scusi Armando, ma le dà gusto quando tradisce? Quando tradisco mi dà gusto, sì. E allora, ecco la risposta, scusi, cos'altro va cercando? Faccia capire. Anche se mi sento poi un po' depresso per il male che magari faccio, no? Cioè magari mi sento... La depressione post-coitum accade ogni tanto. Ho idea. Gemma Gaetani, su queste telefonate un tuo giudizio tecnico. Allora, secondo me traditori non si nasce ma si diventa, io ne sono la testimonial di questo, credimi, non c'era persona più lamentosa di me intorno all'amore, non è vero che si nasce, basta con questa biologia delle cose, non è così, non ci si nasce, ci si diventa, anzi ci si deve diventare, tra l'altro vedi anche lui che è un traditore, vive questo con senso di colpa ed è tremendo, questo è tremendo perché se lui... L'amante con senso di colpa penso sia la cosa più disarrapante che possa esistere nella vita. No, ma infatti, è bella la tua battuta, guarda, la tua depressione sarà una depressione post-coitum, però lui non se ne rende conto, cioè, ma perché ti devi sentire in colpa? Non è peggiore fare qualcosa di negativo nei confronti di noi stessi? Ferire noi stessi? Cioè, se lui tradisce, evidentemente ne sente l'esigenza. No, è triste che poi questi depressi sono quelli che alla fine vanno a confessarsi, si buttano per terra, perdona, mi ho tradito e tutto, e creano delle ferite, delle voragini incolmabili nell'animo che non mai avrebbe pensato questo del loro partner. Melog 2.0 Cancellazione tracce. Al ritorno a casa dal tradimento, controllate per le condizioni vostre del mezzo di locomozione che avete utilizzato, soprattutto se quel mezzo è l'unico della coppia. Cercate capelli e qualsiasi altra traccia di un altro corpo addosso al vostro e disfatevene. Neutralizzate anche il profumo della persona con cui vi siete intrattenuti. Vi sarà utile portare con voi un deodorante per tessuti che è più potente di uno per uso umano. Gemma Gaetani, di andare in giro col Febreze non ci avevo mai pensato, veramente. Però può essere molto utile, lo so, anche di questo ne ho le prove, indizi, veramente, insomma, tenerlo in macchina, ecco, magari non in tasca. No, perché penso che sia urticante, perché sono prodotti che devono sradicare la puzza di pesce fritto dagli abiti, figuriamoci se non se li mette addosso, spellano. Ma no, non addosso, io dico nell'abitacolo, nella macchina. Ah, pensavo come purificante intimo, qualcosa del genere, ho pensato. No, io dicevo per rimuovere dall'automobile quello che Ligabue definisce l'odore del sesso, no? Che, insomma, nella mia macchina, dopo che ci porto ogni domenica mio figlio che è stato a cavallo, potrebbe passarci tutto il Moulin Rouge al completo, non se ne accorgerebbe nessuno. Gemma Gaetani, Elogio del tradimento, Conquista, Tradisci, Nega, Edizioni Vallecchi. Andiamo al punto, i consigli tecnici e pratici. Abbiamo già dato per assodato ormai che nel bene o nel male chi lo soffre e chi ne sente sensi di colpa, chi ha cuor leggero capisce che è una formula di salvezza, chi mai vorrebbe essere tradito, chi mette la mano sul fuoco. Comunque tutti hanno bisogno di consigli. I termini pratici, perché questi sono consigli finora proprio di tipo meccanicistico. Torniamo sull'aspetto interiore, che è l'aspetto più difficile. Il tradimento permette una lenta sfumata di dissimulazione del piacere provato, la soddisfazione della fuga quando si rientra, diciamo, nell'area protetta. In questo caso non esiste deodorante che conta, questa tua euforia, questa gioia, questi occhi perduti e questi sensi ancora fibrillanti dell'appagamento coatto che hanno appena rubato, come li nascondi? Ma li nascondi, secondo me li devi nascondere anche a te stesso. È un po' come se vinci al Superenalotto, è molto sciocco andare a urlarlo in giro, no? In piazza, e devi nasconderli anche a te stesso, nel senso che basta, hai fatto qualcosa, basta, non devi star lì a pensarci, né tantomeno a confessare, chiedere perdono, eccetera. Cioè io invito davvero tutti, chi vorrà, chiaro, insomma, a leggere il libro, e tra l'altro mi possono anche scrivere senza, insomma, utilizzare magari degli insulti molto volgari. No, guarda, conoscendo il mio pubblico, se ti scrivono è per avere lezioni private dirette, quindi non so quanto ti convenga, sì. Perché... io veramente sono molto curiosa nei confronti delle persone, quindi mi fa piacere tutti coloro che mi hanno scritto, anche in privato addirittura, come ti dicevo. È la prima volta che mi sento la grande responsabilità di movimentare emozionalmente un ospite. Comunque mi fa piacere, se questo rallegrerà la tua vita, gli ascoltatori sono invitati a cercarti, con un po' di gelosia e un po' di invidia lo dico. Mauro. Pronto? Mauro, anche te non hai mai tradito? Io ho 46 anni, non ho mai tradito. E ormai c'hai poche cartucce al tuo Winchester, che vuoi più tradire? Quindi basta, ormai è finito. Però mi piacerebbe tradire e anche essere tradito. E anche essere tradito? Certo. Beh, scusa, fai una chiacchiera con tua moglie, andate a fare un giretto, che ne so, ci sono posti adeguati a questo. Oh, ne parliamo tranquillamente, solo che io per rispetto di lei, che non come si può dire, non recepisce questo mio pensiero, quindi non ho mai tradito. Ma il tuo è un fantasma sensuale, è una sorta di incentivo onirico, o in realtà... Io penso che comunque tradire non sia una cosa negativa, perché comunque c'è sempre solo un qualcosa di positivo. Sì, ma perché non cominci per la tua parte senza coinvolgere necessariamente il resto della famiglia? Così intanto vedi un po' che succede. Non ho capito, scusa. Perché non cominci, per quello che riguarda te, a compiere questo atto cosmico senza coinvolgere il resto della famiglia? È solo per un discorso di rispetto. So che mia moglie non l'apprezzerebbe, quindi lo fa. Però se tua moglie fosse presente, o perlomeno ti rimboccasse le coperte, sentiresti meno in colpa. e sicuramente. Tutti noi vorremmo, grazie, tutti noi vorremmo. Le mogli dicono, vieni caro, figurati, ti preparo un caffè, vai di là, tranquillo. Ciao cara, come stai? Certo, questa è l'altra faccia della luna, non esiste. Pochi privilegiati hanno questo tipo di possibilità di poligamia o poliandria. Quindi devi arrangiarti come ci si arrangia, come si arrangiano tutti in questo pericoloso frangente. Cristiano. Ah, Cristiano. Buongiorno a voi. Mi volevo legare proprio a quello che dicevate. Io sono stato un gran traditore. Ho tradito in tutti i modi. E peraltro non me ne sono mai troppo pentito. Però devo essere sincero. Uso il passato. Perché attualmente sono innamorato. Due matrimoni, ti puoi immaginare. Sono due matrimoni falliti. Vari figli lasciati. Però mi sono stancato. Io sento molte persone che dicono ho trovato l'amore, non voglio tradire. Io credo che il mondo sia pieno di tentazioni. Ma sai, non è possibile farsi, nessun chirurgo te la fa. La vasectomia ha l'istinto rapace e la curiosità, capito? Capacità procreativa la possiamo anche bloccare, ma la nostra ansia ferina di scoprire, di annusare, di vedere è un po' difficile. Secondo me uno ce l'ha finché è vivo, capisci? Ma sì, ma soprattutto se io, per carità, non sono, non credo di essere Brad Pitt, ma insomma non sono nemmeno da buttare via. Quindi questo non dice niente, guarda. Ci sono le donne sole. Uomini bellissime, donne bellissime sono i più cornificati da tutti. Sì, ma sono stato cornificato anche io. E chi è che non lo è stato? Cioè, tutti francamente mi sono prima di tutto stancato, perché è anche un lavoro, è un lavoro non indifferente dover nascondere i propri detrimenti. Sì. E poi comunque perché mi sono reso conto alla giovane età di 42 anni che ogni volta che tradivo mi dovevo inventare i mostri con me stesso per nascondere la mia ipocrisia di fondo, attualmente ogni volta che tradisco io lo vivo come un tradimento verso me stesso. Vabbè, c'è senso di colpa, che probabilmente sono l'anestetico più feroce e più efficace per la passione, forse anche un senso di conservazione delle tue energie. Sara? Pronto? Eccolo. Buongiorno Nicoletti. Sì, sentiamo. Sono arrivata alla conclusione, come diceva forse anche già Cristiano, che il vero imputato da mettere sul banco è la fedeltà stessa, perché la trasgressione vera attualmente è la fedeltà. Quindi vedendo il mondo che ci circonda e essendo in mezzo a tantissime persone, lavoro e sono a contatto con la gente quotidianamente, è veramente raro trovare chi è fedele. Sì, ma secondo me trasgredire non deve essere uno scopo, un fine, una necessità. Uno deve fare quello che lo fa star bene. Se lo fa star bene essere fedele, perché non essere fedeli? Mica deve essere un impegno, uno sentirsi depauperato di qualcosa. Ma se uno, quello che dice la nostra autrice Gemma Gaetani, soffre la monogamia sentimentale, sensuale, non voglio parlare di coppie sposate, può essere anche semplicemente un rapporto affettivo, se la soffre, la sente come un limite, perché deve vivere schiavo della propria sofferenza? Gemma Gaetani, ho riassunto efficacemente il tuo pensiero, altro da aggiungere prima che ti segui la sigla? Sì, l'hai riassunto assolutamente bene, tra l'altro grazie insomma veramente di cuore per l'ospitalità. Certo, si potrebbe parlare ancora ore e ore, io non sono affatto d'accordo che la vera trasgressione sia la fedeltà, assolutamente no. Io non sono affatto d'accordo che possa esistere una necessità di trasgredire. Chi cerca la trasgressione come uno scopo in realtà rimane impantanato nei propri desideri, nelle proprie velleità. La trasgressione è qualcosa che ti coglie, ti rapisce e ti rimanda al punto di partenza in pochi istanti, ancora ebro e ancora inconsapevole di quello che hai fatto. E il tradimento assomiglia un po' a questo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.